Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Che avete alla mano, D'Artagnan? Chiese Athos. Sangue, se non sbaglio. Non è niente, rispose il giovane. Già lo abbiamo detto, Athos amava D'Artagnan come un figlio e quell'uomo, cupo e inflessibile, aveva talvolta per il giovane premure paterne. Un graffio, rispose D'Artagnan. Mi sono schiacciato le dita tra due pietre, quella del muro e quella del mio anello. Si è lacerata la pelle. Ecco cosa vuol dire possedere degli anelli con diamanti, signor mio, disse sdegnoso Athos. Ma già, esclamò Porthos, c'è un diamante di fatti. E allora perché diavolo, visto che c'è un diamante, ci lamentiamo di non avere denaro? Ma, obiettò D'Artagnan, è il diamante della regina. Ragion di più, ribatté Athos. La regina che salva Monsieur de Buckingham, il suo amante, nulla di più giusto. La regina che salva noi, suoi amici, nulla di più morale. Vendiamo il diamante. Che ne pensa il signor Abate? Non chiedo il parere di Porthos, si è già pronunciato. Ma io penso, disse Aramis, arrossendo, che siccome l'anello non è il dono di un amante e di conseguenza non è un pegno d'amore, D'Artagnan può venderlo. Allora, disse allegro D'Artagnan, vendiamo il diamante e non parliamone più. La sparatoria continuava, ma gli amici erano fuori tiro e i roccellesi sparavano soltanto per scarico di coscienza. In fede mia, disse Athos, era ora che anche a Porthos venisse quest'idea. Eccoci al campo, dunque, signori, non una parola di più sulla faccenda. Ci osservano, stanno venendoci incontro. Saremo portati in trionfo. Difatti, come abbiamo detto, tutto il campo era in subbuglio. Più di 2000 persone avevano assistito come a uno spettacolo alla fortunata bravata dei quattro amici, bravata di cui tutti erano ben lontani dal sospettare il vero motivo. Non si udiva che il grido di «Viva le guardie! Viva i moschettieri!» Per primo, Monsieur de Busigny era venuto a stringere la mano ad Athos e a riconoscere che la scommessa era perduta. L'avevano seguito il dragone e lo svizzero e dietro di loro tutti i camerati. Vi furono felicitazioni, strette di mano, abbracci a non finire, risate inestinguibili all'indirizzo dei roccellesi. Insomma, un così gran putiferio che il cardinale credette trattarsi di una sommossa e mandò il suo capitano delle guardie, Laudinier, a informarsi di ciò che succedeva. La cosa venne raccontata al messaggero con tutte le frange dell'entusiasmo. «Ebbene», chiese il cardinale quando Laudinier fu tornato, «ebbene, monsignore», disse questi, «sono tre moschettieri e una guardia che hanno scommesso con Monsieur de Busigny di andare a far colazione al bastione Saint-Gervais e che, pur facendo colazione, hanno tenuto 2 ore contro il nemico e hanno ucciso non so quanti roccellesi. Vi siete informato del nome di quei tre moschettieri? Sì, monsignore, come si chiamano? Sono Monsieur Athos, Monsieur Porthos e Monsieur Aramis. Sempre i miei tre prodi, mormorò il cardinale. E la guardia? Monsieur D'Artagnan. Sempre il mio giovane scavezzacollo. Decisamente, quei quattro uomini li voglio per me. La sera stessa il cardinale parlò a Monsieur de Tréville dell'impresa del mattino che al campo era sulle bocche di tutti. Questi, informato dell'avventura dalla bocca stessa dei protagonisti ed eroi, la raccontò nei più minuti particolari a sua eminenza. Monsieur de Tréville, disse il cardinale, prendete con voi D'Artagnan. Non è giusto che quei quattro soldati che si vogliono così bene non servano nella stessa compagnia. La sera stessa, Monsieur de Tréville annunziò la buona notizia ai tre moschettieri e a D'Artagnan, invitandoli tutti e quattro a colazione per l'indomani. D'Artagnan non stava più in sé dalla gioia. Il sogno di tutta la sua vita, lo sappiamo, era stato quello di essere moschettiere. Athos aveva inventato la frase affare di famiglia. Un affare di famiglia non era sottoposto all'indagine del cardinale. Un affare di famiglia non riguardava nessuno. Di un affare di famiglia ci si poteva occupare al cospetto di tutti. Dunque Athos aveva trovato la frase affare di famiglia. Aramis aveva trovato l'idea, i servitori. Porthos aveva trovato il mezzo, il diamante. D'Artagnan solo non aveva trovato nulla. Lui, di solito, il più inventivo dei quattro. Ma dobbiamo dire che il semplice nome di Milady lo paralizzava. Ma no, sbagliamo. Aveva trovato un compratore per il brillante. Dopo colazione, ci si accordò di riunirsi la sera nella loggia di Athos per definire l'affare. D'Artagnan passò il resto della giornata a sfoggiare l'uniforme da moschettiere per tutte le vie del campo. Allora, convenuta, la sera i quattro si trovarono, non restavano che tre cose da decidere. Quello che si sarebbe scritto al cognato di Milady, quello che si sarebbe scritto alla persona molto accorta di Tours, quali servitori avrebbero recapitato le lettere. Ciascuno offriva il proprio. Athos insisteva sulla discrezione di Grimaud, che parlava solo quando il padrone gli scuciva la bocca. Porthos vantava la forza di Mousqueton, la cui statura gli consentiva di mettere a terra quattro uomini di corporatura normale. Aramis, che credeva ciecamente nella scaltrezza di Bazin, tesseva un pomposo elogio del suo candidato. Infine, D'Artagnan aveva la più assoluta fiducia nel coraggio di Planchet e ne ricordava il comportamento nella spinosa faccenda di Boulogne. Signori, osservò Aramis, l'essenziale non è sapere quale dei nostri quattro servitori è il più discreto, il più forte, il più astuto o il più coraggioso. L'essenziale è sapere quale sia più attaccato al denaro. Quello che dice Aramis è quanto mai sensato, riprese Athos. Si deve far calcolo sui difetti e non sulle virtù delle persone. Signor Abate, siete un grande moralista, ma certo, ribatte Aramis, perché abbiamo bisogno di essere serviti non solo per riuscire, ma anche per non fare fiasco, perché in caso di sconfitta ne va della testa non per i servi, ma per il padrone, anzi per i padroni. I nostri servitori ci sono affezionati da rischiare la vita per noi? No, in fede mia, disse D'Artagnan, sono quasi pronto a rispondere di Planchet. Allora, caro amico, aggiungete alla sua naturale devozione una buona somma che gli assicuri l'agiatezza e così, invece di rispondere di lui una volta, ne risponderete due. Buon Dio, sarete ingannati lo stesso, disse Athos, che era ottimista quando si trattava delle cose e pessimista quando si trattava degli uomini. Per avere del denaro prometteranno qualsiasi cosa e per istrada la paura impedirà loro di agire. Una volta presi, li metteranno alle strette. Messi alle strette, confesseranno. Diavolo, non siamo dei bambini. Per andare in Inghilterra, Athos abbassò la voce, occorre attraversare tutta la Francia, disseminata di spie e di creature del cardinale. Occorre un lasciapassare per imbarcarsi. Occorre sapere l'inglese per chiedere la strada a Londra. Francamente vedo la cosa molto difficile. Ma niente affatto, replicò D'Artagnan, che ci teneva molto a mandare in porto la cosa. Al contrario, io la vedo facile. Certamente, perbacco. Se si scrive a Lord Winter in modo troppo palese, dicendo peste del cardinale... D'Artagnan e Athos si guardarono qualche momento in silenzio. Finalmente Athos, dopo essersi concentrato, diventando ancora più pallido del solito, fece un cenno di assenso e D'Artagnan capì che poteva parlare. «Ebbene, ecco quello che c'è da dire», riprese D'Artagnan. «Milord, Vostra cognata è una scellerata che ha voluto farvi uccidere per ereditare da voi. Ma essa non poteva sposare vostro fratello, essendo già maritata in Francia, e essendo stata... D'Artagnan si fermò, come per cercare la parola, guardando Athos. «Scacciata da suo marito», disse Athos, «perché era stata segnata col marchio», continuò D'Artagnan. «Boh!» esclamò Porthos. «Impossibile! Ha voluto far uccidere il suo cognato!» «Sì!» «Era maritata?» domandò Aramis. «Sì!» «E suo marito si era accorto che aveva un giglio sulla spalla?» esclamò Porthos. «Sì!» Quei tre sì erano stati pronunziati da Athos con accento sempre più cupo. «E chi l'ha veduto quel giglio?» chiese Aramis. «D'Artagnan e io, o meglio, per osservare l'ordine cronologico, io e D'Artagnan», rispose Athos. «E il marito di questa creatura orribile vive ancora?» disse Aramis. «Vive ancora. Ne siete sicuro, Athos?» «Ne sono sicuro». Seguì un attimo di silenzio glaciale, poiché tutti, ciascuno secondo il proprio temperamento, furono impressionati da quanto era stato detto. «Questa volta», disse Athos, rompendo per primo il silenzio, «D'Artagnan ci ha dato un'idea eccellente. Ed è questa che prima di tutto bisogna mettere su carta». «Diavolo! Avete ragione, Athos», rispose Aramis. «E la stesura è spinosa. Silenzio che scrivo». Difatti Aramis prese la penna, rifletté alcuni istanti, cominciò a stendere 8 o 10 righe con una graziosa scritturina femminile, poi con voce dolce e lenta, come se ogni parola fosse stata pesata scrupolosamente, lesse quanto segue. «Milord, la persona che vi scrive queste poche righe ebbe l'onore di incrociare la spada con voi in un piccolo recinto di Rue d'Enfer. Siccome poi parecchie volte avete voluto dichiararvi suo amico, essa sente il dovere di ricambiare tale amicizia con un utile avvertimento. Poco è mancato per 2 volte che non foste vittima di una parente prossima che credevate vostra ereditiera, perché ignoravate che, prima di contrarre matrimonio in Inghilterra, ella era già maritata in Francia. Ma la terza volta, che è questa, potete soccombere. La vostra parente è partita da La Rochelle per l'Inghilterra durante la notte. Sorvegliatene l'arrivo, perché ella medita grandi e terribili progetti. Se ci tenete in modo assoluto a sapere ciò di cui è capace, leggete il suo passato sulla sua spalla sinistra». «Perfetto», disse Athos. «Avete una penna da segretario di Stato, caro Aramis. Lord Winter adesso farà buona guardia». «Ma, signori, in tutto ciò», interruppe D'Artagnan, «non pensiamo alla regina. Curiamo un poco la salute del suo caro Buckingham, è il meno che possiamo fare per lei». «Giusto», osservò Athos, «ma questo riguarda Aramis». «Ebbene», rispose questi arrossendo, «cosa devo fare?» «Ma», replicò Athos, «è semplicissimo, redigere una seconda lettera per la persona che abita a Tours». Aramis riprese la penna, tornò a riflettere e scrisse le seguenti righe, che subito sottopose all'approvazione degli amici. «Mia cara cugina, Sua Eminenza, il Cardinale, che Dio lo conservi per il bene della Francia e per la confusione dei nemici del regno, sta per farla finita con i ribelli eretici di La Rochelle. Probabilmente la flotta inglese non giungerà neppure in vista della piazzaforte. Oso perfino dire che la partenza di Monsieur de Buckingham non avverrà a causa di qualche grande evento. Sua Eminenza è il più illustre politico del passato, del presente e probabilmente del futuro. Spegnerebbe il sole se il sole gli desse noia. Date queste buone notizie a vostra sorella, mia cara cugina. Ho sognato che quel maledetto inglese era morto. Non riesco a ricordare se di ferro o di veleno. Di questo sono sicuro che ho sognato che era morto e, voi lo sapete, i miei sogni non mi ingannano mai. Rassicuratevi dunque di vedermi tornare presto. «A meraviglia!» esclamò Athos. «Aramis, siete il re dei poeti. Parlate come l'Apocalisse e siete vero come il Vangelo. Ora non vi rimane che mettere l'indirizzo su questa lettera». «Facilissimo», rispose Aramis. Piegò con civetteria la lettera, la prese di nuovo e scrisse: «A Mademoiselle Marie Michon, cucitrice a Tours». Fu deciso che Planchet sarebbe partito per Londra l'indomani alle 8 del mattino, perché durante la notte potesse imparare la lettera a memoria. Guadagnò in tal modo 12 ore giuste. Doveva essere di ritorno il 16° giorno alle 8 di sera. La mattina, nel momento in cui Planchet stava per montare a cavallo, D'Artagnan, che in fondo al cuore nutriva un debole per il duca di Buckingham, prese da parte il servitore. «Senti», disse, «quando avrai consegnato la lettera a Lord de Winter e lui l'avrà letta, gli dirai ancora: vegliate su sua grazia Lord Buckingham, perché lo si vuole assassinare. Ma questo, Planchet, capisci, è così grave e così importante che nemmeno ai miei amici ho voluto confessare che ti avrei confidato un tale segreto e non te lo metterei per iscritto neppure in cambio di una nomina a capitano». «State tranquillo, signore», disse Planchet. «Vedrete se si può contare su di me». E montato su un cavallo eccellente che avrebbe abbandonato una 20 leghe di lì per prendere la posta, Planchet partì di galoppo. Bazin partì l'indomani mattina per Tours ed ebbe 8 giorni per sbrigare l'ambasciata. Per tutta la durata di quelle 2 assenze, i 4 amici stavano, come ben si può capire, con gli occhi aperti, il naso al vento, le orecchie tese. Trascorrevano le giornate tentando di cogliere quello che si diceva, spiando la condotta del cardinale e fiutando i corrieri in arrivo. Se venivano chiamati per qualche servizio improvviso, gli prendeva a volte un invincibile tremito. Dovevano inoltre stare in guardia per la loro incolumità personale. Milady era un fantasma che, una volta apparso, non permetteva di dormire tranquilli. La mattina dell'ottavo giorno, Bazin, fresco come sempre e sorridente secondo il suo costume, entrò nell'osteria del Parpaillot mentre i 4 amici stavano desinando e, secondo la frase convenuta, disse: «Monsieur Aramis, ecco la risposta di vostra cugina». I 4 amici si scambiarono un'occhiata gioiosa. Metà dell'opera era compiuta. Vero è che si trattava della più breve e della più facile. Arrossendo suo malgrado, Aramis prese la lettera, scritta in calligrafia grossolana e con errori di ortografia. Aramis lesse la lettera e la passò ad Athos. «Guardate cosa mi scrive», Athos disse. Questi diede un'occhiata al biglietto e, perché ogni eventuale sospetto svanisse, lesse forte: «Cugino mio, mia sorella e io interpretiamo benissimo i sogni e anzi ne abbiamo una paura tremenda. Ma a proposito del vostro, si potrà dire, lo spero, che ogni sogno è menzognero. Addio, state bene e fate che di tanto in tanto noi sentiamo parlare di voi. Aglaé Michon».